Mattevi Chiara, coordinatrice dell'area Abitare e Vulnerabilità di ATA Sollus. Il significato del prendersi cura, cioè della parola cura, deriva dal latino sollecitudine, grande e assidua diligenza, vigilanza premurosa, assistenza, ma anche grave e continua inquietudine. Questo per dire che gli operatori del sociale e del sanitario forse hanno proprio rafforzato la vocazione del terapeuta in questo periodo. Credo che la pandemia abbia un po' portato a concentrarci tutti sull'oggi, quindi sul presente, senza dar grosse prospettive. È stata una sofferenza questo susseguirsi del giorno dopo giorno e in questo momento ATA sa la porta chiusa, ci si accede su appuntamento telefonico, quindi il rischio è un po' di non dar più un'immagine di accoglienza, ma e di non intercettare magari quelle fasce che hanno meno risorse anche tecnologiche. Da marzo del 2020 diciamo che la prima criticità, secondo me, fondamentale che è stata evidente, è stata l'impreparazione di tantissimi servizi a livello tecnologico. Nessuno aveva, o pochi, il cellulare di servizio. L'utilizzo di Skype, Meet non era noto e quindi abbiamo dovuto veramente attrezzarci. Quindi dal punto di vista emotivo, beh, io ho sofferto tanto il fatto di, essendo coordinatrice, di questo grosso senso di responsabilità di dover rinforzare i miei operatori che invece quotidianamente avevano più rapporto con gli utenti. È mancato di certo lo spazio di una supervisione professionale per capire effettivamente come stavano vivendo la situazione e quindi un po' questo emotivamente ci ha provato, tant'è che adesso che stiamo riprendendo un po' la supervisione, ci sono colleghi che esternano effettivamente questa grossa fatica di aver lavorato a pezzi, perché comunque ci sono le positività nel lavorare in videoconferenze, ma perdi pezzi un po' da casa, un po' in ufficio, un po' in alloggio, perdi pezzi di storie personali delle persone, dei colleghi, quindi un po' ecco, questa sofferenza di dover prendersi cura anche dalla parte dell'equipa. La cosa positiva, beh, sono tanti secondo me e speriamo anche di mantenerli. Il vero senso del lavoro di rete, nel senso che se ne parlava anche prima, il lavoro di rete è insegnato all'università, nelle nostre professioni di cura, però ha creato la possibilità di spazi neutri, quindi non eravamo più al servizio sociale, al servizio del terzo settore, al servizio sanitario, ma c'è stata questa possibilità di essere veramente rete, quindi senza differenziazioni, tutti sullo stesso piano, sono caduti i protocolli, insomma, si è guardato l'essenziale.